Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Caro chef, oggi abbiamo due regioni, caro Davide, due regioni meravigliosamente ricche dal punto di vista proprio enogastronomico, sono quasi tutte ricche le regioni italiane, però oggi insomma, oggi spingiamo perché abbiamo Puglia e Abruzzo e quindi tu ci farai sognare, no? Ci fai sognare oggi con buongiorno carne, pesce. Buongiorno a tutti, buongiorno Pierre, è sempre un piacere essere qui con voi, quindi oggi abbiamo detto Puglia e Abruzzo, cominceremo con una pasta con ricotta, fave, profumo di caffè, quindi un mix anche di nuova cucina, rucola in salsa burrata e pesca bianca, poi invece in Abruzzo sarde, le lasagne abruzzesi, mandorlo, vette, zafferano dell'Aquila, quindi un'altra tipologia di zafferano molto importante italiana, poi un patè di ceci. Però Pier, io volevo cogliere l'occasione per ricordare che siamo in uscita col nostro primo libro di Mangia come parli. Esatto. Andate e ritorno nella nostra bella Italia, nord, esatto, sud, ovest, est. Assolutamente, come canta Max Pezzali, mio amico Max Pezzali. Esatto. C'è Antonio Razzi 883. Con noi, proprio dall'Abruzzo. Ciao. Con furore, come sta? Come sta? Tutto bene, tutto bene. Io durante la quarantena ho fatto una 80ina di ricette, insomma mi sono un po' sbizzarrito. Ha cucinato molto. Ma anche ricette nordcoreane? Scusami, o solo italiane? O solo abruzzesi? No, io faccio... anche quando vado in Corea mangio le loro cucine tranquillamente, però io preferisco la cucina italiana. Una ricetta. Allora, guarda, secondo quanto tempo uno ha. Se ha tempo veloce, che vuole mangiare in 20 minuti, mezza ora, io faccio spaghetti aglio olio e peperoncino con i gamberi. Ah, è una mia specialità, faccio subito. Sentiamo. Vuole un jingle, Razzi? Aspetti, facciamo un jingle. Il jingle della ricetta, vai. Allora, Razzi, prego. Allora, naturalmente olio extravergine d'oliva, un mezzo peperone dolce, secco, anche se uno non lo vuole molto piccante, mezzo peperoncino anche secco, lo fa rosolare, poi ci aggiunge i scampi, prezzemolo e mezzo bicchiere di cognac o vino bianco e poi quando tira fuori i spaghetti lo deve tirare fuori, io lo tiro fuori 3-4 minuti prima perché poi lo faccio saltare in padella tutto insieme ed è una cannonata. Mi sembra Antonio, interessante. L'unica cosa che cambierei è cognac con un prodotto italiano, magari un brand italiano, io direi, no? No, ma io ci metto un brand italiano, sì. No, teniamo cognac. La pace del liquore. Senti, ma invece l'Abruzzo dal punto di vista enogastronomico, fra l'altro Antonio Razzi è nato a Giuliano Teatino, poi ha vissuto in Svizzera, ha vissuto bravo. Un po' in tutto. Beh, ma insomma, sono aggiornato. Che qual era quando vivevi lontano dall'Italia, magari in quegli anni in cui non c'erano ancora ristoranti italiani come ce ne possono essere oggi, qual era la cosa che ti mancava di più dell'Abruzzo? Naturalmente, a parte i genitori, era la cucina, i sapori, i sagli e fagioli, i sagli e ceci, l'agnello diciamo fatto sulla brace, c'erano tutte queste cose qui genuine che sono robe abruzzese, o paste, sagli e fagioli con le cotiche di maiale. Che cos'è questa pasta? Sagni e fagioli con le cotiche? Con le cotiche, sono sagni fatte a mano, che lo faceva mia mamma, ecco, naturalmente col pomodoro casareccio, col pomodoro di casa. Non male, Oldani. Dopo gliele dedichiamo, io direi facciamo la ricetta a questo punto, la dedichiamo ad Antonio, la ricetta delle lasagne abruzzesi, mandorla, uvetta e zafferano dell'Aquila. Allora, su una spianatoia mettiamo 200 g di farina di grano duro con 200 g di farina di grano tenero, 2 decilitri di acqua tiepida, 2 centilitri di olio extravergine di oliva, poco sale. Lavoriamo l'impasto per una decina di minuti fino a renderlo liscio e omogeneo. Lo facciamo riposare una ventina di minuti, poi con l'aiuto di un mattarello, per cui non una macchina per tirare la pasta, ma il mattarello, quindi due braccia importanti, tiriamo una sfoglia sottile di 4 mm di spessore e tagliamo dei rettangoli da 1,5 cm di larghezza e 6 cm di lunghezza. Otteniamo a questo punto delle sagne, le infariniamo leggermente e le lasciamo stese sulla spennatoia per un'ora per farle seccare leggermente. Poi, molto facile, per la salsa allo zafferano, in un pentolino facciamo bollire 2 dl di panna, addensiamo leggermente facendola ridurre, aggiungiamo poca maizena diluita con acqua fredda, leviamo dal fuoco, aggiungiamo gli 8 stimi di zafferano dell'Aquila, li lasciamo in infusione per 10 minuti, dopodiché avremo una salsa tiepida e molto profumata di zafferano. Per la finitura, molto semplice, cuociamo le nostre sagne in abbondante acqua salata, le scoliamo, le aggiungiamo alla nostra salsa di zafferano, le dividiamo naturalmente in 4 piatti fondi diversi e poi su ogni piatto mettiamo 5-6 pezzi di mandorla, fette di mandorla tostate al forno e 4 piccoli pezzettini per dare il tocco di dolce di uvetta sultanina. Per cui abbiamo un po' di uvetta dolce. Non hai soffritto però, eh? No, il soffritto io direi in questa preparazione no, perché c'è comunque una parte di panna che è già una cosa molto importante come profumo, come gusto, che va a completare, ad alleggerire anche un po' il profumo dolce dello zafferano. Invece lei, Razzi, quanto ha soffritto durante il lockdown? Ha soffritto molto? Ha soffritto? No, non molto, perché facendo soffriggere fa molto male. Allora io gli consiglio in questi giorni un bel spaghetto primavera. Come si fa? Un spaghetto primavera. Ma cioè, lei è fantastico, ragazzi. Cioè, lei ha proprio ricette. Andiamo, sentiamo lo spaghetto primavera. Allora, si mette a bollire l'acqua prima, sì. Perché poi naturalmente uno prepara un bel pomodoro, possibilmente in tedesco si chiama Fleisch Tomate. Pomodori come carne, come potrebbe essere un pomodoro a pera. Tagliuzzata anche una mozzarella e naturalmente del basilico. E quando si tira fuori gli spaghetti sempre al dente, si mette su questo misto di pomodoro fresco, mozzarella e basilico e un tocco di pepe, olio d'oliva extravergine sopra e poi mangiare tranquillamente. È fatto. Che dice il Dani? Bene, mi piace. Fantastico. È una vostra sfida. No. È la sfida all'ultima ricetta. Nel lockdown si è fatto 80 ricette nuove, voglio dire, possiamo stare qua fino a domani. Più o meno come il nostro libro. Vi fermo solo per un attimo, fra poco ripartiamo da qui, ripartiamo dall'Abruzzo, dalla grande tradizione dell'Abruzzo, devo dire anche dalla grandezza dell'agnello, che è una carne che veramente rappresenta l'equity, il brand profondo, la tradizione di questa regione fantastica. Mangia come parli. Allora, siamo con Antonio Razzi, nato nella provincia di Chieti, quindi con una tradizione, diciamo, soprattutto immagino di cucina di terra, vero Antonio? Sì, io vengo da un paese, Giuliano Fiatino, posso dire, un paese di 1300 abitanti, un paese che è a 30 chilometri da Pescara, 20 da Chieti, no? È un paese, diciamo, introterra, sopra Francavilla al mare sopra. Sì. Naturalmente noi l'agnello lì, sempre parlavamo prima di agnello, un agnello casareccio. Io ne ho imparato a fare queste cose guardando mia mamma, perché io ero sempre un curiosone a vedere come si faceva la cucina. Ma io posso dire che quando avevo 9-10 anni io già sapevo cucinare, perché quando vedevo che i miei genitori se ne andavano a lavorare in campagna, io facevo da mangiare e quando ritornavano loro dicevano: cosa hai combinato? Guardate, provate. E quando hanno provato, lo sai che sei stato bravo. Un talento. Anche tu hai cominciato così, chef, guardando la mamma? Io ho cominciato a, sì, anch'io a guardarla, però 16-18 anni, 9 anni è un Maradona della cucina. Esatto. Antonio, Maradona. No, io invece cucina, guardavo, scusa, mia mamma che cucinava, devo dire anche mio papà cucinava ogni tanto in occasione di qualche cena, però mi limitavo a mangiare quello che facevano. Cioè, non avevo questa curiosità, mi mancava lo spunto della rielaborazione. Un'altra ricetta, ragazzi, un'altra ricetta, vai, a chiudere. Visto che parliamo di agnello, allora io faccio un sugo d'agnello con le costine di agnello, sì. Lo faccio rosolare sempre con l'olio d'oliva, un po' di pepe, un po' di sale, ma lo faccio proprio, e magari ci metto anche altre spezie, come se metto una foglia di alloro per addolcirlo più che altro, e poi lo faccio rosolare forte finché diventa cotta al massimo. Naturalmente ci metto un mezzo bicchiere di pecorino, un vino che è abruzzese, certo, puro, il pecorino, e lo faccio ancora finché che si asciuga tutto. Poi ci metto il pomodoro, possibilmente un pomodoro fresco, e quando bolle ci aggiungo anche un po' di formaggio pecorino per farlo stringere. E quando lo tiri fuori, mamma mia che pasta! Antonio Razzi, complimenti. Io starei tutta la puntata a sentire le sue ricette. Me ne evochi un'altra, così senza dirla. Me la evochi, solo il titolo. Me la evochi. Ma, guarda, linguine allo scoglio, ti faccio bello impazzire. Bello lo scoglio. Le linguine allo scoglio ti faccio impazzire, cara. Amico caro. Come va bene. Linguine allo scoglio. Grazie Antonio Razzi. Io do il benvenuto ad Antonello Valentini, che è stato, per quanti anni sei stato direttore generale della Federcalcio? Sei nata a Bari, e questo mi fa pensare a quella che è la capitale. Sbaglio se dico che è la capitale del pesce crudo, la capitale italiana del pesce crudo, cioè c'è un luogo in Italia dove tutte le persone hanno quella cultura lì, anche quelli che non lo mangiano, che sono pochissimi, immagino, a Bari. Ciao Antonello. Ciao, pesce crudo e frutti di mare. Frutti di mare, certo, frutti di mare. Certamente. Cioè siete la Provenza, cosa, siete la Francia d'Italia, il coquillage. Tranne le ostriche, però per il resto cozze, pelose, ricci, allievi, polipi, datteri, cannolicchi, quello che vuoi. Con, lo diciamo subito, una giusta precisazione va fatta agli aspetti ovviamente sanitari, perché sappiamo ovviamente che sono cibi meravigliosi, ma che in qualche caso, quando non ci sono le giuste garanzie, possono essere anche pericolosi, e ovviamente anche a quelli legali, perché sappiamo che ci sono frutti di mare che si possono mangiare, altri che non si possono mangiare, che ci sono periodi... Pierre, sì. Dipende dagli anticorpi che uno ha, capito? Ah, certo. È vero, però la freschezza, dato che ci sia grande freschezza, devo dire che questo lockdown è servito per rigenerare il mare. Prima della pandemia c'era il problema di come farlo rigenerare, riprodurre, eccetera. Adesso con i 3 mesi hanno bloccato la pesca, e infatti allo stesso tempo, anche nel negativo che è accaduto, il mare secondo me si è ripreso un po' la sua parte, per cui secondo me i pescatori adesso avranno la possibilità di pescare, insomma, il giusto pesce. Questo è un concetto fondamentale. Noi insistiamo spessissimo sulla stagionalità, ma è un tema fondamentale. Cioè, la natura è meravigliosa, ci offre delle cose fantastiche. Queste cose non sono infinite, ce le dobbiamo conservare, le dobbiamo alimentare, dobbiamo avere rispetto per quelli che sono i ritmi della natura. E quindi, insomma, tutto il tema del termobiologico è un tema ovviamente importantissimo, al di là di tutte le implicazioni di natura strettamente legale che ci sono dietro. Ma la tua passione qual è? La tua passione, non mi dire che sono le bracciole, non mi dire che sono le bracciole. No, ho sentito prima linguine allo scoglio, ma le linguine allo scoglio si fanno un po' dappertutto, sì, più o meno bene. Invece io propongo un piatto che si fa soltanto a Bari, non esiste in un altro posto del mondo, cioè riso... la famosa tiella di riso, patate e cozze, che è una cosa difficilissima da fare, perché devi cuocere insieme il riso, le patate, e ci devi mettere le cozze a crudo dentro con l'acqua loro, come si dice dalle parti nostre. Quindi è un'arte quella di fare la tiella barese di riso, patate e cozze. Il problema è che purtroppo io vivo a Roma. In due indicazioni, riso, patate e cozze, come lo vedeva fare dalla nonna o dalla mamma, ce le dà? Sì, come no, guarda, io non riesco a farlo a Roma, dove vivo da 30 anni, perché a differenza di quello che avviene in Puglia, a Roma nessuno ti apre le cozze, io non le so francamente aprire, mentre in Puglia si vendono a guscio intero, a mezzo guscio, a frutto nudo, Quindi siccome lì vanno messe a mezzo guscio e poi vanno riempite con un pochino, poco riso, altrimenti il riso si gonfia e diventa una mappazza indigeribile, e allora a Roma non lo posso fare, però adesso che mi trasferisco per le vacanze giù, ovviamente riso, patate cotte resta un piatto straordinario, perché poi ci sono dentro, c'è un po' di aglio, un po' di cipolla, ci sono le zucchine. Ma qui ci sono due teorie diverse, chi mette le zucchine e chi non le mette, quindi sono due scuole di pensiero completamente diverse, e poi sopra i pomodorini, e quindi viene un piatto appetitoso, un piatto unico se vuoi. Insomma. È un priscio, possiamo dire che è un priscio. È un priscio, come diciamo noi baresi, no, non sono barese per carità, è una goduria, una libidine, proprio una libidine coi fiocchi, come diceva Gerry Cala. Senti, quanti anni sei stato in Federcalcio con la squadra nazionale? 20 anni? 27 anni. Chi era? Fammi il podio dei, quindi avrei visto passare giocatori meravigliosi di tutte le categorie. I tre che magnavano di più in 27 anni di nazionale, quelli proprio che non resistevano. Dato ormai è tutto in prescrizione, non c'è niente di male. Sì, ormai non posso essere più. Angelo Peruzzi era uno che magnava a quattro ganasce, e quando gli vietavano di mangiare passava dal bar di Coverciano e di nascosto si riempiva la tuta con i bondi in moto, le merendine, capito? Infatti si vedeva poi dall'amore, ma quasi tutti mangiavano molto, però ovviamente ognuno a modo suo. Chi mangiava, quelli del Milan per esempio, mangiavano la frutta prima di cominciare a mangiare, e quegli altri non mangiavano solo le proteine, e quegli altri mangiavano solo i carboidrati ma con le verdure crude, e quegli altri le verdure cotte, cioè era un però noi avevamo un buffet. Cassano enorme. Metteva la Nutella dentro la pizza. Cassano lasciamo stare perché si mangiava questo mondo e quell'altro, naturalmente. Però noi avevamo un buffet enorme di 12 metri, 15 metri, dove c'era il ben di Dio. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare sempre, ma proprio per rispetto della provvidenza, è di non buttare la roba, ecco, perché quello sarebbe stato veramente. E poi vi portavate in occasione delle grandi manifestazioni, quindi mondiali, europei, magari dall'altra parte del mondo, partivano questi container pieni di chef e anche i prodotti, no? E cioè anche i prodotti base, naturalmente, perché ormai si trovava un po' dappertutto, però la pasta, il prosciutto, la bresaola, l'olio d'oliva, la passata di pomodori, il parmigiano, le forme di parmigiano, e poi gli chef, poi c'erano i riti, perché la sera della vigilia della partita si faceva il risotto alla parmigiana e poi il pollo arrosto, era un rito, quindi c'era una corsa a questa cena della vigilia, perché era particolarmente, come dire, appetitosa. Chef, tu hai cucinato a Casa Italia in Brasile, che però è un concetto diverso. Esatto. Hai mai cucinato invece per una squadra, no? No, una squadra no, però per più sportivi, professionisti, come era Casa Italia. Sappiamo tutti che Casa Italia è il momento in cui gli sportivi vanno a rilassarsi un attimo dopo aver vinto le medaglie, dopo aver gareggiato. Per cui è stato il primo approccio che con il CONI abbiamo avuto col presidente Malagò per poter inserire una sorta, tra virgolette, di fine dining dentro, in un sistema che prevede magari il più delle volte delle diete. La dieta è una cosa corretta, però è altrettanto, se cucinato in maniera corretta, anche il fine dining può essere portato anche a livelli di cibo per sportivi, e così è quello che abbiamo fatto nelle Olimpiadi di Rio del 2016. Ci fermiamo un secondo solo, Antonello, ripartiamo da qui e che voglio sentire una cosa finale sul pesce crudo, poi andiamo anche con la prima ricetta della Puglia, poi arriva Chicco Cerea e poi andiamo avanti. Mangia come parli. Allora, siamo con Antonello Valentini, storico dirigente della Federcalcio, 27 anni di squadra nazionale e una solida tradizione pugliese, e ogni tanto ci incontriamo anche la Vino Bono, che è un ristorante che frequentiamo tutti e due a Roma, e devo dire che no, ma mangiamo anche quando cosettina. Quando lasci qualche tavolo libero. Devi stare calmo, devi stare molto calmo. Ecco, devi stare molto calmo. Senti, allora, il pesce crudo è proprio una religione a Bari, no? Cioè ha un valore simbolico pazzesco. Sì, pesce crudo, e ti ripeto, soprattutto i frutti di mare crudi, perché ovviamente i ricci sono quelli che portano la battuta, naturalmente, però puoi mangiare, da noi li chiamiamo datteri, in altre parti si chiamano fasolari, poi sai, ogni regione ha le sue denominazioni, però le noci, i datteri, che sono vietatissimi e che ormai si vendono di contrabbando a oltre 100-120 euro al chilo, perché ovviamente lì bisogna andare sotto, rompere la roccia, quindi è una cosa molto sorvegliata, per fortuna, sì, devo dire. Però per i redditi, il polipo è quello che è, c'è tutta l'arte di strisciare i polipi, perché il polipo, quando tu lo peschi, se sei fortunato a vederlo, io non riesco mai a vederlo sott'acqua, comunque, se sei fortunato a vederlo, è moscio, liscio, invece bisogna arricciarlo sbattendolo con violenza sugli scogli, perché così si crea quella, capito? Si ammorbidisce innanzitutto, certo, e poi si cucina. Noi li mangiamo crudi, naturalmente, i polipi, no, ovviamente si possono cucinare in tanti modi, naturalmente. Sì, non è un reato cuocerlo, però insomma, diciamo che no, però no, il gusto di mangiarlo crudo è un'altra, certo, cosa, naturalmente, certo, un'altra, però, cosa, Pierre, certo. Scusa Pierre, scusa Antonello, c'è anche un metodo che unisce un po' la qualità del polpo, che è quello napoletano / pugliese, perché in alcuni posti in Puglia l'ho assaggiato, che è il metodo che poi utilizzano anche i giapponesi per cucinare il polpo per il sushi, perché c'è tutta una trafila, una maniera tale per poter mantenere le ventose, per cui c'è una sorta di sbianchitura del polpo nell'acqua, e poi è un taglio molto sottile per renderlo molto carnoso e mantenere le proprietà, la sapidità che il polpo fresco ha, ma senza mangiarlo crudo. Sai, qualcuno, per arricciarli e renderli anche più teneri, in figa gli fa fare un giro nella centrifuga della lavatrice. Vale tutto. Allora, tu sai, Antonello e Pier, questa cosa è molto pratica e l'ho sentita anch'io. C'è altrettanto chi per servire lo spaghetto a corda di violino, cioè molto al dente, utilizzano un'altra cosa, cioè una volta scolati dall'acqua bollente, all'acqua di cottura, prendono un phon con l'aria fredda e li fonano, perché non gli danno lo shock termico e gli mantengono la cottura. Sono cose che ho visto fare, però non possiamo dimenticare l'altro piatto tipico, perché mia moglie sa fare benissimo, quindi la prima volta che vieni a Roma, invece di andare da Vino Bono, vieni a casa mia e ti mangi fave e cicorie. Ma che un purè di fave con le cicorie, che è una cosa, ti segnalo che sono a Roma, quindi ci vediamo stasera direttamente. Cioè, proprio è bellissima idea, come l'ho detto. Grazie Valentini, le voglio bene, grazie, ciao, grazie, ci vediamo stasera, ci vediamo stasera, grazie, ci vediamo tranquillamente stasera, grande serenità, ecco. Allora, vogliamo parlare di che cosa? Della pasta con ricotta, fave e profumo di caffè? Ma invitare Pierre, perché è sempre pronto, sempre dietro la porta, ovunque lui sia, ovunque arriva l'invito, Pierre c'è. Anche davanti, in qualche caso, anche davanti. Allora, vai. Allora, cosa facciamo, Pierre? Dicevi rucola in salsa? Come vuoi, burrata, dai, rucola, pesca bianca, vai, ti va bene? Rucola, va bene, va benissimo, vai. Allora, naturalmente qui è importante la provenienza della rucola, quella selvatica, quella molto intensa, molto amara, molto forte di profumo. In un pentolino facciamo rosolare 50 g di sedano bianco tagliato a fette sottili con 50 g di patata dolce tagliata a piccoli dadi. Sfumiamo con un decilitro di vino rossese, lo facciamo evaporare. Cuociamo per 10 minuti più o meno, fino a che la patata non diventa tenera. Bagniamo con 6 decilitri di acqua, aggiungiamo 100 g di rucola selvatica lavata e asciugata, terminiamo la cottura per altri 3-4 minuti al massimo, dopodiché leviamo dal fuoco e con l'aiuto di un frullino a immersione frulliamo il tutto. Filtriamo al setaccio fine, aggiustiamo di sapore con poco sale e poco, se vogliamo, del poco pepe e magari un po' di peperoncino. Questa sarà una salsa molto densa, molto setata e soprattutto con il profumo e il ricordo di questo amaro della rucola che a me piace molto. E poi per la finitura è molto semplice, dividiamo la rucola in 6 ciotole diverse, quindi questa salsa di rucola potrebbe essere o tiepida o addirittura fredda, la adagiamo in queste 4 ciotole diverse, per cui poi prendiamo 80 g di burrata sfilacciata che viene adagiata sull'ulteriore, su questa nostra salsa di rucola, e poi facciamo dei piccoli cubetti da 4 mm l'uno di pesca bianca cruda sbucciata, che danno il tocco di acidità e il tocco di dolcezza. E poi alla fine, se volessimo, possiamo aggiungere giusto un tocco di finocchietto selvatico o dei semi di finocchietto, e magari una o due foglie di rucola fresca, giusto lavata e asciugata. Ci ha ascoltato, meglio, ti ha ascoltato Chicco Cerea, chef del ristorante, insomma, vabbè, da Vittorio. Da Vittorio, non c'è neanche, non c'è bisogno di pubblicità, di Brusaporto, Chicco. Ci sentiamo per la prima volta dopo tutto quello che è successo. E insomma, tu vieni a un luogo. Ciao, sei di un luogo, ciao, di un luogo particolare. Ciao. Di un luogo particolare, io vorrei che tu mi raccontassi con un editoriale di un minuto che cosa è stato tutto questo per voi che l'avete vissuto da lì vicino. Ma innanzitutto da Bergamo, dirti che come cucina le patate Davide è una cucina di città. Ma certo. Ascolta, no, al di là del farci qualche risata, perché ora abbiamo passato dei momenti davvero brutti, cominciamo a vedere, abbiamo visto la fine del tunnel finalmente. Sembra che il lavoro pian piano riprenda, si torni tutta la normalità. Però un paio di mesi fa qui non era così, come in altre parti d'Italia. Noi l'abbiamo vissuto proprio anche in modo particolare, un po' dura, un po' cruenta, in prima linea proprio. Ho avuto purtroppo anche delle persone vicine che sono mancate. E al di là di quello, proprio lo sconforto di vedere tutto il nostro lavoro, la nostra attività, anche così proprio desolata, ferma. Lo staff che era perso, era, ti chiamava, non si sapeva cosa fare. È stata una cosa surreale, una cosa veramente brutta, difficile. E però adesso invece no, dai, adesso sembra che la cosa è pian pianino. Adesso stare facendo una bella iniziativa, ne vogliamo parlare, perché torna in versione Reload, un'iniziativa che celebra l'alta cucina e ci fa riscoprire soprattutto il piacere della convivialità a tavola, fra il 15 giugno e il 7 agosto. Sì, assolutamente, che è la nostra associazione in gruppo, partita qui nella Bergamasca grazie all'iniziativa di un collega, Giuliano Pellegrini, che poi ha coinvolto una ventina di ristoranti in tutta la Lombardia. Ed è un'iniziativa bella perché innanzitutto è bella per noi ristoratori, che ogni tanto ci si trova, ci si scambia opinioni e si sta insieme, e anche a noi piace la convivialità e piacciono queste cose. E poi è bello perché possiamo presentare i nostri locali con delle promozioni a gente che magari ha paura di avvicinarsi ai nostri locali e quindi non è abituato a certi tipi di locali, e invece abbiamo delle grandi soddisfazioni, perché poi quando vengono a trovarci si trovano spiazzati di come stanno bene, di come sono, invece si sentono a casa, di come si sentono coccolati, e poi diventano clienti nei mesi a venire, no? E purtroppo questa iniziativa era stata sospesa durante il Covid. Siccome avevamo avuto già tante prenotazioni, ci sembrava brutto abbandonare queste prenotazioni, la gente che vuole venire da noi grazie a questa iniziativa. Così l'abbiamo prolungata sul 15 giugno al 7 agosto, l'abbiamo prolungata e continuiamo con questa iniziativa. Dei menu fissi, menu però a prezzi veramente particolari, vantaggiosi, ed è una bella cosa, e vi aspettiamo numerosi, perché avete modo di scoprire le realtà veramente belle. No. Un abbraccio Chicco, ti verremo a trovare. Chicco, un abbraccione. E ovviamente un abbraccio a tutto il tessuto produttivo della ristorazione, non solo della meravigliosa provincia di Bergamo, di Brescia, insomma queste città che hanno vissuto questa tragedia terribile in una maniera purtroppo molto più drammatica rispetto al resto del paese. Ci fermiamo fra poco, Spazio News, Soldani, un altro ambasciatore del gusto, altre ricette. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Mangia come parli. Mangia come parli. Spazio News, vai, vai, jingle, vai. Allora, siamo in Puglia oggi, Puglia Abruzzo, e c'è una bella notizia proprio pugliese: la Disneyland della pizza apre in Puglia, arriva il pizzaiolo numero uno al mondo, Francesco Martucci, che da Caserta sbarca nell'Alta Murgia, una pizza farm di 50 ettari con 40 trulli per gli ospiti. Francesco Martucci è il mattatore dei Masanielli a Caserta e divide con Franco Pepe, altro straordinario uomo che ha legato la sua vita e la sua creatività alla pizza, insomma condividono praticamente il primato di numeri uno al mondo. Tutto questo accorato e raccontato a Piede Piccolo, strada esterna, chilometro 7, fra Andria e Ruvo di Puglia, un posto bellissimo. E poi, Oldani, ho visto che hai fatto una lampada da tavola per ridisegnare il rapporto fra luce, cibo e convivialità. L'altro giorno, mentre sfogliavo il Corriere della Sera, dico: ma io questo lo conosco, questo signore vestito di bianco. Ed era il signor Oldani. Che hai fatto? Che hai fatto? Abbiamo creato Bontà in collaborazione con un grande gruppo italiano che è Artemide, dove ho avuto l'occasione, l'opportunità di mettere al centro della mia tavola questa luce che è una luce sostenibile, che è una luce che illumina sì i commensali, ma altrettanto quel cibo che andiamo a mettere nei due o tre piatti differenti di diverse forme fatti a Murano. Per cui un progetto italiano che va a illuminare la tavola e va ad illuminare lo stesso cibo. Allora, se tu disegni, lo sei sempre stato designer, e quindi insomma cambia mestiere parzialmente, forse anche David Beckham, che è in trattativa con Netflix e BBC per essere l'anchorman di un nuovo show culinario, quindi magari lo troveremo nei panni dello chef. Lui ha fatto di tutto nella vita e può fare anche questo. E poi ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Mimmo Caso e con i suoi succhi di melograno. Beh, insomma, tutto il settore dei succhi di frutta in generale sembra reagire bene, rispondere bene alla pandemia, perché c'è un'analisi dell'IRI che evidenzia una ripresa delle vendite della frutta da bere durante la pandemia, soprattutto quella meno zuccherata. Il settore vale 403 milioni di litri e genera 581 milioni di euro il giro d'affari. Insomma, è un settore tutt'altro che trascurabile. Senti, allora facciamo la pasta con ricotta, fave e profumo di caffè? Sì, anche perché è molto semplice, Pierre. È una ricetta che ho imparato, ho visto un po' dalla mia mamma, che non è pugliese, che è milanese, però l'ho tradotta nella Puglia, quindi basta, usiamo un'orecchietta artigianale, si può fare. Cuociamo in abbondante acqua salata 240 grammi di orecchietta, le scoliamo. Poi per la ricotta è molto semplice, per la salsa sono 200 grammi di ricotta di pecora diluita con un decilitro di acqua di cottura della pasta, quindi molto semplice. Insaporiamo con 100 grammi di tarassaco lavato, quindi sfogliato dentro e cotto al vapore a parte. Poi, una volta che abbiamo inserito il nostro tarassaco, aggiustiamo di sale con magari un pizzico di peperoncino macinato. Condiamo le nostre orecchiette con questa salsa, con il nostro tarassaco profumato, eccetera, e le dividiamo in quattro piatti fondi. Una volta che le abbiamo divise, cospargiamo con un leggero polvere di caffè Kafa. Io suggerisco il Kafa perché è un mio gusto personale, di una miscela particolare, Lavazza, in ogni singolo piatto, e poi delle fave piccoline sgranate e crude aggiunte sopra. Poi magari il tocco dolce possiamo farlo con un pochettino di uvetta passa, tu sai, per il mio contrasto tra dolce, certo, e salato. Certo, fra suggestioni e ispirazioni di tipo diverso. C'è con noi Cesare Battisti, ambasciatore del gusto e chef del Ratanà di Milano. Insomma, noi ogni settimana abbiamo un ambasciatore del gusto e la domanda di partenza più o meno è sempre la stessa: a che punto siamo? Ciao Cesare, a che punto siamo nella ripartenza, nella ripresa? Il comparto si sta lentamente riprendendo, siamo insomma, la gente ci dà molta fiducia, e però ci sono tantissime cose ancora da fare, per cui adesso poi siamo molto contenti perché siamo stati scelti dai 50 Best come organizzazione no profit, beneficiamo quindi dei fondi che saranno raccolti all'asta a luglio. che potremo distribuire tra gli associati. Senti, Cesare, nel tuo decalogo che ho trovato sul sito di Ratanà, leggo, insomma, sono 10 regole. Quella che mi è piaciuta di più è che la cucina è un atto umile e democratico, un piatto non mette mai in soggezione, risulta comprensibile al maggior numero possibile di persone. È questa la filosofia. Poi, insomma, anche noi proviamo a farlo. Chiaramente lo chef è uno stellato, ma è uno stellato pop, no? Ma non è vero, ma guarda, io sono molto amico di Davide, ci conosciamo. Appunto. E lui sa benissimo stesso qual è approccio. La cucina, esatto, per cui la cucina è veramente, deve essere un atto umile e democratico e deve essere accessibile a tutti, non devono più esistere, devono un attimino fondersi a quello che fino adesso è stato proprio uno scalino tra l'alta ristorazione accessibile a pochi e quello che c'era una volta a Milano, c'erano i grandi ristoranti e le osterie, no? Per cui adesso ci sono vie di mezzo dove comunque lavorano anche dei grandi professionisti, poi è un movimento che ultimamente, sai, in Francia sta quasi passando, però sì, certo. Grazie a Cesare. SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Giulia da Roma. Salve chef, mi sa dire esattamente quanto e come deve cuocere in pentola il polpo perché rimanga tenero? Questa è una bella domanda. Io proverei con il metodo più classico, inserendo la punta di un coltello ben affilato dopo magari una quarantina di minuti. Però sono dell'idea, come dicevo prima, che il polpo ben fatto, io lo preferisco quello cotto alla napoletana, dove rimane turgido, denso, duro e soprattutto che mantenga le ventose attaccate. Maria da Foggia. Salve chef, è possibile recuperare e riutilizzare in qualche modo in cucina l'olio aromatizzato utilizzato per il sott'olio? Ad esempio quello dei pomodorini secchi? Grazie. Ma certo che sì, questo è il primo esempio di una total cucina, cioè quando aprite il vostro rosetto di pomodori secchi che avete fatto voi o che avete comprato, quell'olio secondo me potrebbe essere utilizzato per un secondo piatto che possa essere di pesce o di carne o addirittura un primo piatto. Bene, e poi Alberto da Bologna. Ciao Davide, l'aglio di Voghera, che è meno forte dell'aglio normale, ne va utilizzato di più o va messo solo in quei piatti leggeri o si può mettere anche crudo? Grazie. Due cose, l'aglio di Voghiera, che è in Romagna, è una DOP che io ho cominciato a seguire 3 anni fa per la mutazione che ha fatto, cioè dall'aglio bianco l'hanno cucinato tra virgolette e l'hanno reso fermentato, come quello che insomma che si prende dalla Cina, adesso insomma da altre parti del mondo, l'abbiamo fatto nostro con un prodotto nostro, per cui è DOP. Quello bianco è intenso ma dolce allo stesso modo, ma quello di Voghiera che io adesso preferisco è proprio quello fermentato, quello nero. E devo dire che Alberto da Bologna è alla doppietta, perché l'avevamo sentito, se non sbaglio, pure la settimana scorsa in una fase. Chiamaci, Alberto, continuiamo a andarci. Adesso è Soldani, abbiamo 30 secondi finali per le patate per di ceci. Ricetta. Ecco, il patè di ceci. Ah, patè di ceci, patè, di novelli, menta e uovo sodo. Allora, che cos'è? Che 200 cos'è? Grammi di ceci cotti al vapore, più o meno per un'ora. Li passiamo al setaccio per ottenere una purea liscia ed omogenea. Li condiamo con 50 g di yogurt magro, una buccia di limone verde, 4 cl di olio di semi di zucca e 4 foglie di menta tagliate con una piccola forbice a listarelle molto sottili. Quindi misceliamo tutto, abbiamo la nostra crema di ceci tiepida, anche fredda, questa è molto buona. La dividiamo in 4 ciotole diverse e aggiungiamo 2 pezzi di lampone per persona. Quindi vedi anche qui frutta e legume come importante, e cospargiamo con 2 uova sode mimosa, vale a dire abbiamo cotto 2 uova in un tegamino, le abbiamo sbucciate, le abbiamo passate al setaccio, per cui sembrano con la miscela del tuorlo e dell'albume un po' il fiore mimosa, che adagiamo sopra a questa crema di ceci al lampone e poi a questa mimosa gialla e bianca che anche ha un effetto scenico molto bello. E poi cosa facciamo? Basta. Le sediamo se vogliamo. E poi salutiamo un Dani. Un velo di olio e un po' di sale grosso. Assolutamente. E poi salutiamo, perché siamo lunghissimi come spesso ci capita, ma insomma il piacere della tavola. E questo è l'enorme, chef, grazie. Bello. Alla prossima. Un caro saluto a tutti, ciao Pier. Ciao Davide, ciao.